hai sempre saputo che la gente è ruffiana e la milonga è traditrice. Lo hai sempre saputo che quegli occhi non valgono neanche il prezzo di un caffè. L'hai sempre saputo. La passione è un lampo, il dolore è un oceano infinito. L'hai sempre saputo che la vita ti morde alle spalle senza neanche un perché. E allora quella volta fu il cuore ad essere l'inganno, a farti credere fosse amore. Stupido gioco di un ragazzo, soltanto un veleno, le sue labbra su di te. Veleno, quegli occhi sono un lago scuro insondabile. Veleno, quel desiderio che stringi inconfessabile. E il tempo ti asciuga un po' la bocca, lacrime e parole, ma vai qui non ti danno.